fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua a Risto Radio Convento in compagnia di una nuova amica. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Beatrice, piacere a tutti. L'ha detto Nicole, l'ha detto? Ha detto il suo nome, che non voleva che lo dicessimo. E invece l'ha detto. Sì, basta non dire il cognome. Ah, esatto, esatto. Il nome è quello, quindi... top secret, esatto, non si può dire. Sì, di dove sei? Sono di Bergamo, Ponteranica. Bergamo alto o Bergamo basso? In centro, poco fuori dal centro. Ma perché è un quartiere dove abiti? No. Più un paesino, dai. Un paesino. Ah, ok, no, perché di solito Bergamo Alta e Bassa è solo la città, no? Giusto? Sì. Bergamo Alta è bellissima, se le consiglio di venirci a trovare. È fantastica, ci bellissima. Vengo spesso io, è veramente bella. Di dove siete voi? Peschina del Garda, ma l'intervista... No, noi siamo del convento, cioè noi esistiamo solo qua dentro. Era pura curiosità. Non usciamo mai, abitiamo qua, ci materializziamo con le prime luci della notte e svaniamo con le prime luci del giorno. Ti piace? Ma sono tutti d'accordo, sono anche l'altro, quello di prima, Francesco, lo conosci Francesco? No, non lo conosco, però di vista sì, so chi è. Perché tu fai parte della categoria delle amiche della... Francesca, mia cugina. Ah, è tua cugina? Sì, tua cugina. Mia cugina. Anche lui faceva parte degli amici di Francesca, però. Certo, noi siamo amici di Francesca e anche di Nicole. Ci manca Nicole, però ci mancano gli amici di Nicole. Sì. Dopo li chiamiamo. Vuoi approfittare di questo momento per dire qualcosa di bello su Francesca? Certo, sono molto orgogliosa di lei, le faccio le mie più sentite congratulazioni e niente, le auguro il meglio per il futuro. Tu le hai sentite le congratulazioni, Nicole? No, non le ho sentite. No, perché lei mi fa le più sentite, allora... Non le ho sentite, non sono arrivate. Adesso le ho sentite, adesso le ho sentite, così sì che si sentono. Perfetto. Dai, un difetto della festeggiata di Francesca qual è? Un pregio, un difetto? Allora, un pregio è molto responsabile, matura, sensibile. Un difetto... Beh, magari non lo pensa, però giusto. No, lo penso veramente, un difetto... Al momento non mi viene, sono sincera. Tutti peggio sta ragazza. Colpo di scena, incredibile, non ha un difetto. L'abbiamo trovata finalmente. È perfetta. Esiste la donna che non ha un difetto. No, nessuno è perfetto, però al momento non me ne viene in mente nessuno. Testarda, egocentrica, no. No. Troppo studiosa. Bravo Beatrice. Allora, magari ci puoi raccontare un aneddoto che nessuno sa di voi? Se si può dire radio, è una cosa... Allora, una volta eravamo a fare una passeggiata in bici. Sì? Una passeggiata in bici, non si può sentire. Eravamo in bici. Lei era in bici, tu camminavi? Eravamo tutte e tre in bici, io, lei e l'altra cugina che è quella ragazza lì. Come si chiama quella ragazza lì? L'altra è Federica. La Federica, ok. Ecco, eravamo in bici. Sì? Francesca rimase indietro perché stava mettendo della musica sull'iPod. Okay. Io caddi. Ulla. Perché c'era tantissima ghiaia, caddi. E lei si perse la scena. Io ad un certo punto le dico: Franci, sono caduta. Lei, non avendo visto, non ci credeva. Aveva la musica forte nelle cuffie. Diceva: vai avanti, io sono caduta. Ma lei non sentiva niente. E quindi niente, ha iniziato ad arrabbiarsi con me. Ma non aveva capito che io fossi caduta e avevo male al ginocchio. Quindi lei è andata a destinazione, tu sei rimasta indietro là a terra. Sì, assurdo veramente. Ti hanno abbandonata nella ghiaia così? Sì. Ma che storia incredibile. Poi, la cosa fantastica è che parla al passato, quindi cioè proprio è difficile, guarda che non parla nessuno al passato. Neanch'io, però ci sto provando. Pensavo fosse abituata. No, purtroppo no. E quando è successo questo fattaccio? Saranno 2000 anni fa? No, 2000 no, però credo 7 anni fa sì. 7 anni fa, quindi avevi 3 anni, 5, 12? No, cavolo, ne ho 20, 15, 3, sì, 12. 20. 12 anni avevo, dai, più o meno. Tu sei più piccola o più grande di Io Francesca? Sono più piccola, sia di Federica che di Francesco, sono la più piccolina. Piccola è quella più monella, sì. Secondo me. È monellina? Sì. Sei monellina? No, devo dire di no. Modellina invece quella di? Modellina neanche. Neanche. Non hai mai sfilato? Non hai mai fatto no. Selfie a bomba, quelli sì. Neanche i selfie. Pochi, pochissimi. Ma dai. Una ragazza poco social. Sei poco social. Metto solo foto di viaggi, devo dire. Ci credo poco. Appena sei entrata in radio, subito un selfie, o no? Dai, ma ti ricordo quando mai mi ricapita. È vero, quando mai ti ricapita, è vero. Però sai che ti puoi riascoltare scaricando la nostra app. Davvero? Sì, allora sì, lo farò. Lo farai? Sì, assolutamente, anche per vedere le foto. Brava, ti riascolterai anche. Certo, no, volentieri. Ma che bello, ma è che bello. Vergogna però. Davvero? Spero di non dire troppe cavolate. No, no, sei bravissima, anzi parli in un modo molto soft, vero Nicole? Sì, incuriosisce un po'. Sì, sì, oh, wow. Ma tu fai un po' la professoressa, no. Purtroppo no. Ti piacerebbe farlo? Non lo so, non saprei. Io una professoressa così andrei a scuola. Ci tantissimo. Grazie, sì, sì, sì, gentili. Sì, sì, sì, sì. Poi magari ti va fuori da bacchetta e inizia a bacchettare tutti gli studenti. No, gli occhi, no, anzi, forse sarei troppo buona. No, si vede buonissima, è tenera e dolce. Grazie. Sei fidanzata? Sì. È qua? No, non è qua, però mando un bacino mio amoroso. 5 anni e 7 mesi. Ah, però... Dopo che sei caduta l'hai incontrato praticamente. Dopo la caduta hai fatto lui e l'ha salvata. Il principe azzurro. Wow. Fantastico, esatto. Colpo di scena, ti ha sollevata. Sì. Col suo cavallo bianco. Col suo mantello, gli ha detto dai, aggrappati. E lei si è aggrappata e così si innamorava. Ah, si è aggrappata a mantello? Quasi. Quindi i confetti quando? No, aspettiamo ancora un pochino, dai, sono giovane. È giovanissima, con calma. Intanto già è record come periodo di fidanzamento, no? Sono tanti. Avevo 14 anni io. Quindi il primo bacio l'hai dato a lui? Sì. È quello del primo bacio? In gita in terza media. Wow. In gita in terza media il tuo primo bacio, sul pullman, in fondo? Sì. C'ero, ero l'autista. Ecco, ho guardato dallo specchietto, visto ecco, quella che stanno carambata. La carambata. Ero io che guidavo il pullman. Sì. Ma limonavate di brutto però. No, No, allora non ero io. Staccata purtroppo. Una cosa soft. Ma è stato lui a fare il primo passo? Sì. Con che tecnica? Tramite amiche ho saputo che appunto era un po' interessato a me. E poi è scattato il tutto, ma io non ero dell'idea. E quindi non volevi baciarlo? No. E quindi come hai fatto a opporti? Mi sono girata. Cioè lui ha cercato, cioè, quel momento fatidico quando il maschio arriva come un falco. Sì, e invece a distanza di anni mi sono accorta che c'era un legame forte tra di noi. Ah, ma quindi, cioè, il primo bacio non è stato un vero primo bacio? È stato, esatto, non è stato un vero primo bacio. È stato un bacio un po' rubato. C'è un altro ragazzo che vorrebbe baciarti. Ecco, ci ha fatto vedere, ecco, attenzione. Tra l'altro, ci ha fatto proprio le pulizie generali. Guarda, se vuoi pulire anche qui che c'è un po' allora, di opaco. Come si chiama questo ragazzo? Prima mi detto che si chiama Giuseppe. Giuseppe, ecco. Ma in realtà il suo nome credo sia Matteo. Allora, facciamo un appello a tutte le ascoltatrici, Nicole, che chi limonerà con Giuseppe stasera prenderà almeno un miliardo di microbi. Sì, che ha una bella lingua lunga. Sì, no, si è leccato tutto il vetro. Anche lui qui davanti, mi sa che vuole pulire un po' il vetro. Questo è un devoto invece, in ginocchio da voi ragazze. Quest'altro lo conosci? No, Beatrice? Sicuramente no, non conosco nessuno dei due, però con lui ho fatto qualche foto. Ecco, sarà stato quel ragazzo. Bella leccata. Perfetto. Tra l'altro starà facendo le mesh sotto le ascelle di Giuseppe, questo ragazzo. È bello però, vedere. Sì, posso fargli leccare anche la mia camicia che è sporca di cera, se vuole, così ecco, almeno risolviamo il caso. Sono utili. Sono i pesci lavatori questi, eh? Eh sì, sai cosa sono? Quelli che puliscono. Quelli che si attaccano all'acquario. Ecco, ci sta. Sono, diciamo che lui non andava bene. Non ci sentono. Non ci sentono. Quindi ciao, ragazzi, sta facendo Pamela Anderson adesso. Attenzione, ecco. Peccato che siamo in radio e gli amici da casa non possono vedere quello che stiamo vedendo noi. Queste cose così fantastiche. Ecco, sono delle creature incredibili che si trovano solo al convento, tra l'altro. Infatti. Bellissimo. Eravamo in un momento magico. Il primo bacio, lei che lo rifiuta, poi invece scopre che è il suo vero amore. Una cosa pazzesca, lui ci è rimasto malissimo, avrà sofferto. Un altro? Ma Beatrice, sei un catalizzatore. No, lui è il moroso di Francesca. Ma certo, lui è il moroso di Francesca. Sì, il ragazzo koala, l'ho visto prima attaccato alla schiena Stefano di Francesca. Stefano si chiama. Stefano. Ragazzo koala, esatto. Si era attaccato dietro alla schiena. Si è andata in fermo immagine, Beatrice. No, ci stanno scattando. Ah, ci stanno scattando, ecco perché ti sei fermata. Ragazza non social, vedi? No, esatto, ricordiamo, come sottolinea Nicole, non è social. Ricordo. Sì, sono solo momenti così, Va bene, guarda che forse entri nel selfie insieme alla creatura strana. Ma chi sono? Non lo so, sono tuoi fan. Che ti andranno a vedere, ad ascoltare di sicuro. Intanto, dopo questa magia così, vuoi mandare anche un messaggio al tuo lui? C'è qualcun altro che manda dei messaggi? Pensavo, ecco, Sì, abbiamo Dovazzi e poi abbiamo anche Pollo, sai, quello di 3 metri sopra il cielo. Perfetto. È uguale, guarda, serata dei sosia. Fantastico, questa volta puntano Nicole. Infatti, dai. Chissà perché nessuno viene da me, però non capisco. Ci sono in giro. Va bene, allora, bene. Vuoi approfittare per salutarlo? È un po' imbarazzante, però sì, ciao amore, ti mando un bacio. È che il nome sono sempre io dopo. Gabriele, si chiama Gabriele. Gabriele, e nell'intimità come lo chiami? Amore. Amore, basta semplicemente, non sì. So chiottino, cicipucci. Cipo. Cipo? Cipo, non so spiegarle il motivo, ma ci chiamiamo Cipo. Cipo, sì, è bello. Lui Cipo e tu Cipa? No, Cipo, entrambi. È un chip con la O. Siete, perché sono due uccellini? Non so perché, sinceramente, però Cipo. E assieme cipate? No, no. Cioè sì, ma sì, ma no, no, ma... sì, ma no, sì, ma no. Va bene, Nicole, cosa dici? È ora di salutarla, la Beatrice? Sì, la salutiamo, la facciamo andare dal suo Cipo, se no sai. Grazie mille, ragazzi, esatto. È stato un piacere essere in radio con voi. E grazie anche a te. Grazie a te, grande Beatrice. Ciao. Grazie. Da Sandrino e Nicole. Ciao. Ciao. Ciao.